Focus Economia. Con Vincenzo Miglietta. Sette e zero cinque, ben trovati da Vincenzo Miglietta per una nuova puntata di Focus Economia, puntata nella quale torneremo a parlare soprattutto di pensioni, con l'allarme della Ragioneria dello Stato per eventuali limitazioni agli automatismi, all'adeguamento alle aspettative di vita. Se ne sta parlando in questi giorni, se ne parla soprattutto in Parlamento. Timori questi espressi oggi anche dal presidente dell'INPS Boeri. Dall'altra parte un fronte trasversale di forze politiche e sindacati, dicevamo, che spinge perché si rivedano invece questi meccanismi. Questo sarà il nostro primo approfondimento. Torneremo poi a discutere, a parlare dei 10 anni dall'inizio della crisi economica, chi ci ha guadagnato e chi ci ha perso. Ed ieri abbiamo affrontato il tema dal lato degli operatori finanziari, oggi ci concentreremo sulle aree economiche, soprattutto Stati Uniti ed Europa. Stati Uniti ed Europa che sul fronte dei mercati vivono una giornata non certo esaltante, trascinati a ribasso secondo molti analisti sin dall'inizio delle contrattazioni dalle tensioni geopolitiche in Estremo Oriente. Sappiamo, l'abbiamo ascoltato nei nostri giornali radio, le tensioni tra Trump e la Corea del Nord. Insomma, da questa mattina sembra che queste tensioni stiano influenzando i vari mercati. Allora guardiamo subito insieme Wall Street, Dow Jones in questo momento meno 0,23%, Standard & Poor's 500 meno 0,21%, Nasdaq addirittura meno 0,58%. Se dovesse proseguire in questa maniera, credo e temo che si fermerebbe oggi il trend rialzista da parte della borsa americana. Per quanto riguarda la borsa di Milano, in questo momento un FTSE MIB non certo in salute, meno 0,72% a 21.891 punti. Allora guardiamo insieme rapidamente i migliori e i peggiori. I migliori: Leonardo, Brembo, Italgas, Mediaset e Terna. I peggiori del FTSE MIB: Buzzi, Unicem, Mediobanca, Fiat Chrysler, Unicredit e Banca Generali. Tra i titoli più scambiati, onestamente non ci sono grandi novità rispetto agli altri giorni: Unicredit, Intesa San Paolo, Eni, Banco BPM, Fiat Chrysler, Enel e Ferrari. Solitamente sono un po' queste le classifiche e dei titoli più scambiati. Andiamo a vedere gli altri listini europei. DAX Francoforte in questo momento quasi meno 1%, per esattezza meno 0,96%, il FTSE 100 di Londra meno 0,60%, il CAC 40 di Parigi meno 1,34%, il cambio euro-dollaro 1,17408. Interessante lo spread poi dei titoli di Stato, abbastanza fermo nelle ultime settimane. Invece oggi il BTP nei confronti del Bund tedesco è a 157,70 punti, più 4,16%. Anche questo sarà tema di un nostro approfondimento, ne parleremo tra breve nelle notizie che precedono il nostro primo approfondimento. Dicevamo del trend rialzista del BTP nei confronti del Bund tedesco. Evidentemente, secondo gli analisti, i timori di una fine del quantitative easing della Banca Centrale Europea sta spingendo in tal senso. Questo è un nostro primo sommario. Potete scriverci, lo ricordo, al 349 238 6666, oppure potete andare a cercare i nostri social, il sito di Radio 24, la nostra pagina Facebook. Passiamo allora alle notizie in breve. Per le notizie in breve partiamo come sempre dalle materie prime. L'oro più 1,2% a $1,272 l'oncia, il petrolio che ritorna a muoversi un pochino, più 0,6% a $49.4 l'oncia. Evidentemente si torna ad investire sui beni sicuri proprio a fronte di queste tensioni di cui parlavamo pochi istanti fa. E allora partiamo proprio da queste, dal braccio di ferro tra Washington e Pyongyang. La Corea del Nord starebbe considerando un piano per colpire la statunitense Guam, ovvero la base americana nell'oceano Indiano. Secondo fonti militari di Pyongyang sarebbe proprio questo l'obiettivo. Secondo l'intelligence USA, i nordcoreani sono riusciti a produrre una mini testata nucleare in grado di essere montata sui missili di Kim, ovvero del dittatore nordcoreano. E Trump avverte: se continueranno con l'escalation della minaccia atomica, la nostra risposta sarà fuoco e furia. Il senatore McCain, repubblicano, però lo critica: non aiuta se poi non può fare quello che dice. Le autorità della piccola isola Guam assicurano: il territorio è al sicuro. Appello contro il nucleare da Nagasaki, colpita, lo ricorderete, dalla bomba esattamente 72 anni fa, bomba atomica al termine della Seconda Guerra Mondiale. E questi timori, lo abbiamo visto, hanno influenzato le borse sin dal mattino, colpendo soprattutto i comparti dei beni voluttuari, -0,9%, dei materiali, -0,9%, e dell'informatica, -0,85%. Da Washington non si alimentano però più di tanto le polemiche, a parte le dichiarazioni di Trump, lo abbiamo sentito. Non credo che ci sia alcuna minaccia imminente da parte della Corea del Nord, gli americani dovrebbero dormire tranquilli, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rex Tillerson. E veniamo all'Italia. Dicevamo del rialzo per quanto riguarda il rapporto BTP-Bund, lo abbiamo visto poco fa, 157 punti, ha sfiorato i 160, questo sui timori di una fine del quantitative easing della Banca Centrale Europea. E sono proprio le banche italiane che si stanno posizionando per la fine del quantitative easing e accelerano la vendita di titoli di Stato italiani. Secondo un report di Jefferies, citato in un articolo del Financial Times, la dismissione di BTP da parte dei nostri istituti ha raggiunto la cifra record di circa 20 miliardi di euro a giugno, dopo i 9,4 miliardi ceduti a maggio. L'alleggerimento del portafoglio registrato nei due mesi ha ridotto del 7,2% l'esposizione del sistema bancario verso i titoli di Stato italiani venduti alla BCE e alla Banca d'Italia. Gli istituti del nostro paese tirano la volata alle banche europee, dove a giugno le vendite di titoli di Stato sono ammontate complessivamente a 46 miliardi di euro, portando il saldo da inizio anno a 257 miliardi. Lasciamo momentaneamente la finanza per occuparci di qualcosa di più tangibile, la produzione industriale, che accelera in Italia e cresce dell'1,1% sia nella media del secondo trimestre rispetto al trimestre precedente, sia a giugno 2017 rispetto a maggio. Lo comunica l'Istat, che nel trimestre precedente aveva rilevato un calo congiunturale dello 0,2%. L'aumento tendenziale mensile rispetto a giugno 2016 raggiunge il 5,3% nei dati corretti per gli effetti del calendario ed è il maggiore a partire dalla fine dello scorso anno. E legato alla produzione industriale c'è anche la produzione italiana di autoveicoli, che aumenta a giugno del 19,9% rispetto all'anno precedente, secondo sempre i dati Istat. Beh, non sarebbe male un quinto praticamente in un anno. Nella media del secondo trimestre la crescita rispetto al periodo precedente è del 4,4%. È un settore che sta trainando la produzione industriale anche in questo mese, commentano dall'Istituto di Statistica. E il balzo del manifatturiero è un successo in primis delle imprese italiane che investono, innovano e competono nel mondo. È un risultato raggiunto anche grazie ad una politica industriale incentrata su stimoli automatici all'innovazione e all'internazionalizzazione, lo afferma il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, commentando proprio questi dati Istat. Ed ancora, parliamo di Bankitalia e dei prestiti alle famiglie e alle imprese. A giugno i prestiti alle famiglie sono cresciuti del 2,6% su base annua, dopo il più 2,5% registrato a maggio, mentre quelli alle imprese sono rimasti stabili a un più 0,3%. Secondo Banca Italia, nel rapporto Banca e Moneta, in generale i prestiti al settore privato, corretti per tener conto delle cartolarizzazioni degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, sono cresciuti dell'1,2% su base annua, dopo l'1% registrato a maggio. I depositi del settore privato sono aumentati del 5,1% su base annua, 4% in maggio, mentre la raccolta obbligazionaria è diminuita del 15,8%. Il tasso di crescita delle sofferenze è stato pari al 4,4 su base annua contro il 5,5 nel mese precedente, e quando si corregge tale tasso di crescita per tener conto delle cartolarizzazioni degli altri crediti ceduti e cancellati dai bilanci bancari, risulta pari al 10,4%. Parliamo dell'ortofrutta. A settembre il ministro Martina intende emanare il decreto per la costituzione del tavolo ortofrutticolo nazionale. Lo annuncia in una nota il viceministro allo stesso ministero, logicamente Andrea Olivero, che oggi ha presieduto al MIPAF il tavolo di coordinamento ortofrutta per affrontare le problematiche relative al settore e in particolare la situazione di crisi derivante dal calo delle quotazioni di alcuni prodotti quali albicocche, pesche e nettarine. Ci avviamo rapidamente verso il nostro primo approfondimento. Prima una notizia che riguarda il gruppo del Sole 24 Ore. Il Sole 24 Ore ha sottoscritto con Palamon Capital Partner un contratto per la cessione di una partecipazione del 49% di Business School 24, società di nuova costituzione a cui sarà conferito il ramo aziendale dedicato alla formazione. Lo annuncia una nota: il corrispettivo della cessione è stabilito sulla base di una valorizzazione dell'enterprise value della Business School di 80 milioni di euro. Ovvero il valore totale sono 80 milioni di euro, il 49% sarà così pagato in 39,2 milioni e sarà corrisposto per 35,3 milioni all'esecuzione della cessione, per i residui 3,9 milioni al più tardi entro il 2023. L'esecuzione del contratto di compravendita, spiega la nota, avrà luogo all'esito del periodo di offerte dell'eventuale asta dei diritti inoptati nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato il 28 di giugno. E con questa notizia che riguardava il gruppo Sole 24 Ore chiudiamo le notizie in breve. Passiamo al nostro primo approfondimento. Primo approfondimento dedicato, lo abbiamo già detto, al tema delle pensioni. Abbiamo qui con noi, e lo ringrazio, Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Buon pomeriggio Davide. Buon pomeriggio Vincenzo. Allora Davide, ci siamo visti già 2 giorni fa, parlavamo di pensioni, parlavamo in generale del difficile sistema pensionistico italiano nel momento storico nel quale stiamo parlando, la difficoltà per i giovani ad entrare nel mondo del lavoro. In quel caso abbiamo parlato soprattutto di che tipo di pensione avranno i giovani nati negli anni 80. Non abbiamo dato grandi garanzie sotto questo aspetto qui. Oggi Davide, parliamo invece dell'allarme lanciato ieri dalla Ragioneria Generale dello Stato sui timori che si intervenga sugli automatismi che sono adesso in vigore e previsti, automatismi che adeguano l'uscita dal mondo del lavoro alle aspettative di vita. Ci sono forze politiche e sindacati che spingono perché questi automatismi vengano un attimino rivisti, perché secondo loro sono penalizzanti per tanti lavoratori. Ieri la Ragioneria dello Stato ha quantificato anche quanto eventuali modifiche potrebbero gravare sul mondo pensionistico. A questi timori della Ragioneria dello Stato si è aggiunto oggi anche il presidente dell'INPS Boeri. Allora andiamo per passi, partiamo dalla Ragioneria dello Stato. Ma dunque, la Ragioneria ieri ha diffuso la versione integrale del rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo della spesa previdenziale sanitaria, in cui sono confermati tutti i numeri che stavano nelle anticipazioni di giugno, cioè in particolare sull'aspetto che citavi prima, cioè su questo stabilizzatore automatico della spesa. È stato fatto un esercizio di quantificazione di cosa succederebbe se si congelasse, nelle proiezioni la Ragioneria fa vedere da una parte come spesa e debito crescerebbero nelle decadi misurate da qui al 2050-2060, e dall'altra fa vedere anche come si assottiglierebbe l'assegno previdenziale di chi in virtù di questo congelamento andasse in pensione prima, perché bisogna tener conto del fatto che col sistema contributivo, soprattutto per coloro che hanno una pensione pienamente contributiva, cioè quelli che hanno iniziato a lavorare per interici dal 1996 in avanti, a prescindere dalla loro età, più tardi vai in pensione e più la tua pensione è pesante. Prima vai in pensione e più la tua pensione è leggera. Quindi ieri la ragioneria, tra le varie simulazioni, tra le varie stime che ha proposto al dibattito pubblico evidentemente su questo fronte, ha proposto una simulazione secondo la quale una uscita anticipata, quindi bloccando a 67 anni o a 66 anni e 7 mesi, addirittura bloccando l'età di vecchiaia, si avrebbe un alleggerimento della pensione futura attorno al 2060, quindi per i nati che nel 1970, quelli che adesso hanno 27-30 anni, ci sarebbe un alleggerimento della pensione futura fino al 12,8%. Fino al 28% per i lavoratori autonomi. Certo. Ecco, questo è uno scenario, diciamo, molto micro, se si vuole, cioè che riguarda le tasche dei lavoratori, ed è uno scenario con cui ha senso fare i conti quando in generale si parla di queste cose, perché poi concretamente succede questo. Quindi la ragioneria dice, attenzione, lo dice un po' a tutti, eventuali cambiamenti innanzitutto aggraverebbero il peso del debito. Esatto. E questo è il primo elemento, ma anche voi lavoratori che magari sperate di andare in pensione prima, attenzione, perché l'assegno sarebbe molto più leggero rispetto invece alla data giusta per andare in pensione. Questo va detto. Esatto, tenendo conto che si tratta di stime in questo secondo caso ottimistiche, cioè partendo dal presupposto di carriere contributive piene. Se ci fossero delle carriere contributive incerte, certo, con dei buchi di versamento, delle discontinuità all'inizio del percorso, naturalmente la cosiddetta nuova pensione rispetto all'ultimo stipendio sarebbe ancora più leggera. Questo è il modello in cui dobbiamo, come dire, in cui viviamo, e bisogna tener conto anche di questi aspetti, insomma. Allora, per arricchire il nostro confronto, facciamo ascoltare il presidente dell'INPS Boeri ai microfoni Rai, che oggi dice che le pensioni sarebbero più basse senza un aumento progressivo dell'età pensionabile, che quindi non è neanche nell'interesse dei lavoratori più deboli, è quello che stavamo dicendo. Ascoltiamo. È pericolosissimo toccare questo meccanismo, perché può avere effetti sia in avanti che all'indietro. Le generazioni che hanno già vissuto questi adeguamenti, per esempio con l'aumento di 4 mesi nel 2016 o prima ancora di 3 mesi nel 2013, direbbero: ma perché noi abbiamo dovuto pagare? E poi, guardando in avanti, invece avremo un aumento ulteriore della spesa pensionistica. Noi l'abbiamo stimato, avremo un aggravio di spesa pensionistica di circa 141 miliardi. Queste dunque le parole del presidente dell'INPS Boeri. Davide Boeri dice: avremo un aggravio di 141 miliardi. E poi Boeri dice: se uno percepisce la pensione più a lungo perché si vive più a lungo, è giusto anche che contribuisca più a lungo al sistema. Sono numeri questi evidentemente elaborati anche in proiezione, immagino io, a parità di crescita, oppure una ripresa. Magari ce l'auguriamo tutti, con percentuali più elevate potrebbe aiutare il sistema previdenziale. Naturalmente una maggiore crescita economica, una maggiore crescita del mercato del lavoro, dei tassi di occupazione, aiuterebbe di più. Però bisogna tener conto che nelle stime di ieri della ragioneria la crescita è ritoccata nel lungo periodo a un 1,2% nelle medie quinquennali sui decenni a venire, e quindi è una crescita minore di quella che si era prospettato fino al rapporto dell'anno precedente, che era 1,4. Le stime che ha citato il professor Boeri, questi 141 miliardi, sono poi il titolo dell'intervista che ha fatto al nostro giornale 3 settimane fa. È una stima immaginata su un blocco a 67 anni nel 2021, proietta sul 2050 un cumulato di maggiore spesa per 141 miliardi. È un esercizio, come dire, che vale come prima indicazione di impatto. bisogna tenere sempre conto del fatto che queste decadi lontane, noi parliamo del 2050 come se fosse una data molto lontana da noi, però quando si parla di pensioni queste date sono dietro l'angolo. In quegli anni la spesa pensionistica sarà caratterizzata dalla famosa gobba, perché andranno in pensione, stanno andando o sono andati in pensione i cosiddetti figli del baby boom, quindi sono coorti di lavoratori molto numerose, si libereranno molti spazi sul mercato del lavoro perché usciranno molti lavoratori, quindi ci saranno molti spazi in entrata, per dare così conto anche dei cultori della teoria per cui più lavoratori senior escono e più spazio ci sono per i junior. Ecco, però in quel momento noi avremo una spesa in forte tensione, speriamo di non avere un debito pubblico elevato come ce l'abbiamo adesso, perché altrimenti avremo dei problemi. Ecco, è a queste curve che pensano coloro che indicano nei rapporti queste stime. Certo, certo, sono curve che però evidentemente vengono prese in considerazione dal mondo politico, anche dai sindacati, ma forse vengono viste molto molto lontane, perché tu stesso Davide dicevi, parliamo del 2050, del 2070, che adesso come adesso sembrano decadi molto molto lontani da noi, però, ma vanno prese in considerazione. Faccio un esempio molto concreto. Sì. Quando è stata fatta la riforma Dini nel 1995, se si fosse fatto immediatamente il passaggio al calcolo contributivo. Per prorata per tutti quanti i lavoratori nel 1996, cioè l'anno dopo, è stato calcolato che nei primi 15 anni avremmo risparmiato più di 30 miliardi di spesa previdenziale. Oggi ci troveremmo con un andamento della spesa previdenziale molto più sotto controllo e forse anche con un debito pubblico più basso. Questa è una scelta che abbiamo che è stata fatta 22 anni fa, quando hanno fatto quella riforma lì, e il peso di quella scelta lì, che sembrava all'epoca una cosa, come dire, gestibile. Ecco che la stiamo pagando. Quindi diciamo, quando si parla di scambi generazionali di oneri, è esattamente questa cosa qui, cioè 20 anni dentro le dinamiche della spesa previdenziale sono pochissimo, e infatti dire oggi, preoccuparci oggi del fatto che nei prossimi 20 anni la spesa andrà in tensione perché vanno in pensione i baby boomers è una cosa molto sensata, perché è tra pochissimo che ci saranno dei problemi ed è bene gestirli ora, insomma. Ecco, per me sono argomenti condivisibili e sensati, però ascoltando il contributo che ascolteremo tra brevissimo di Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, esperto proprio di previdenza, uno ascolta la parte poi del sindacato e sentendo le motivazioni del sindacato sembrano condivisibili anche quelle. Allora le ascoltiamo e poi ne parliamo insieme. È inappropriato e sbagliato. Inappropriato perché non spetta alla ragioneria né all'Inps intervenire sulla previdenza. È sbagliato perché ignorano i dati di fatto. In Italia l'età di accesso alla pensione è 3 anni più alto nella media europea. Per questo bisogna sterilizzare il legame all'aspettativa di vita che entrerebbe in vigore nel 2019. E non ci sarebbe un problema per i conti? Assolutamente no. Noi abbiamo fatto uno studio proprio in questi giorni che nessuno ha smentito. I conti per la spesa per pensioni pure in Italia è sotto la media europea, è l'11% del PIL, un punto meno della Francia, mezzo punto meno della Germania. Basta fare cassa sulla previdenza, dobbiamo continuare a reintrodurre elementi di equità e giustizia come abbiamo fatto nell'ultimo anno. Voi proponete di sterilizzare l'aumento a 67 anni nel 2019, che cosa consiste concretamente questa proposta? Bisogna bloccare questo incremento perché porterebbe troppo alto l'asticella. Contemporaneamente siamo disponibili ad affrontare uno studio settore per settore del mondo del lavoro, perché non tutti i settori hanno lo stesso legame all'aspettativa di vita, e fare un intervento in questo caso efficace e utile ai lavoratori e al paese. Ma l'età massima quale dovrebbe essere? Ma non ci deve essere un'età massima in prospettiva. Quella che noi abbiamo è già molto alta. Al regime del sistema contributivo, quando uno va in pensione e prende quello che ha versato, se vuole ripartire a lavorare incrementerà la sua pensione. Questo è il modello del futuro, flessibilità e volontarietà. Flessibilità e volontarietà, dice Domenico Proietti, segretario confederale della UIL, intervistato dalla collega Teresa Trillò. Proietti dice anche basta fare cassa sulla previdenza. Davide Colombo? Ma diciamo che io, Domenico Proietti è uno dei sindacalisti più esperti del settore, per cui io rispetto molto le sue considerazioni, però ricordo che, ancora tornando al rapporto di ieri della ragioneria, i tecnici ricordano che dopo 20 anni di interventi sulla previdenza orientati al taglio della spesa, nell'ultima manovra sono state fatte misure che vanno in controtendenza e aumentano la spesa. Circa 7 miliardi di aumento di spesa, ricordiamo le nuove quattordicesime. A cosa ti riferisci? Mi riferisco alle nuove quattordicesime, che sono circa 900 milioni di maggiore spesa, mi riferisco alla ottava salvaguardia per gli esodati, a un ulteriore allargamento della no tax area per i pensionati con reddito più basso e ad altre misure di flessibilità che sono state introdotte. Non certo l'APE perché si autofinanzia, neanche l'APE sociale perché è spesa assistenziale, però diciamo che è stata fatta una scelta di controtendenza e oggi parlare di questi automatismi di controllo della spesa che sono automatici, quindi dovrebbero essere adottati a prescindere dal confronto politico, manda dei segnali che vengono percepiti con qualche allarme al Ministero dell'Economia. Immagino se la ragioneria ha fatto un rapporto di questo tipo ci sarà una ragione, questi sono numeri, diciamo. Certo. E sono tendenze di lungo periodo che vanno prese in considerazione. L'INPS, se fa delle considerazioni di quel tipo perché pure vuole sollevare, come dire, un'allerta su quello che si sta discutendo. Io c'era una considerazione che faceva prima Boeri nell'insert che avete fatto sentire, cioè teniamo conto che già in due episodi nel passato, nel 13 e nel 16, alcune coorti di lavoratori hanno subito un posticipo del pensionamento in virtù del fatto che l'adeguamento automatico è scattato anche per loro e quindi hanno dovuto lavorare qualche mese in più. Qui stiamo parlando di 5 mesi in più forse nel 2019 e stiamo parlando del fatto che nel 2021 comunque c'è una norma che dice 67 anni anche se l'aspettativa di vita dovesse crollare. Stavo venendo proprio a questo punto qui, Davide, resta se puoi con noi, ci fermiamo per il meteo e poi approfondiamo questa, se non sbaglio, che è una clausola di salvaguardia che tra l'altro è stata concordata in sede europeo. Crefozert e rafforzi la tua immagine nel mondo. www.creditreform.it vi presenta Focus Economia. Sette 7.33 di nuovo insieme Focus Economia e con noi Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Davide, dicevamo adesso nella pausa che siamo un po' tutti affetti da pensionite in questi giorni perché è un argomento che ci interessa a tutti, ma interessa anche i nostri ascoltatori perché noto un deciso incremento dei messaggi che ci arrivano al 349-238-6666. Cerchiamo di rispondere velocemente a qualcuno. Tra i più interessanti c'era questo dove si chiede, ma parliamo tanto di persone che dovranno andare in pensione a 67 anni, ma perché c'è ancora qualcuno che va in pensione a 56, 57, 55 anni? È così? È così perché il nostro sistema prevede una pluralità di deroghe e di riserve di legge particolari che consentono di andare in pensione prima rispetto ai requisiti di cui si discute. Quest'anno, in questo momento, si dovrebbe andare in pensione di vecchiaia a 66 anni e 7 mesi nel primo semestre dell'anno. L'età media alla decorrenza delle nuove pensioni erogate nel primo semestre è stato attorno al 61 anni. Quindi, ci sono moltissimi esodati, per esempio salvaguardati, che stanno andando in pensione a 59, a 60 anni, abbassano molto la media. Quindi ci sono flussi importanti di pensionamento, decine di migliaia di nuovi pensionati che stanno ancora andando con questi livelli di età reale. E quindi immagino che l'impatto non sia minimo, non stiamo parlando di una riserva indiana, l'impatto, di piccoli numeri. No, stiamo parlando del fatto che i flussi di nuove pensioni che registra l'INPS hanno una età media, la decorrenza media vuol dire che appunto ci sono pensioni anche inferiori, tra i 61 e i 62 anni, questo è un dato dell'ultimo mese di giugno, quindi questi pensionati di 61-62 anni hanno una aspettativa di vita molto importante, diciamo che la loro pensione dovrebbe durare come minimo 25 anni, quindi basta fare un calcolo di quanti anni di contributi hanno alle spalle per capire che quel pezzo di spesa pensionistica che si sta proiettando impatterà sul debito pubblico degli anni a venire. Ecco, siccome ci viene contestato il fatto che il debito pubblico non sia legato invece alla spesa previdenziale, qui purtroppo se sarebbe bello, sarebbe no. Bello, perché purtroppo la spesa previdenziale è un aggregato molto pesante della spesa corrente, è coperto solo in parte dalla contribuzione dei lavoratori che pagano i contributi, e con il sistema della ripartizione pagano direttamente le pensioni dei pensionati, ma questo non basta. Lo Stato copre il resto, e il resto è coperto con trasferimenti che fluttuano tra gli 80 e i 90 miliardi l'anno, e queste spese corrente che è coperta dalla fiscalità generale. Sappiamo gli squilibri tra entrate e uscite della fiscalità generale, che determinano un fabbisogno annuo, non un avanzo annuo, e quindi questo impatta su deficit e debito. Un'altra domanda: ma perché non è possibile andare in pensione quando voglio e con i miei contributi? Allora, il modello contributivo che era stato introdotto teoricamente con la riforma Dini del 95 prevedeva una flessibilità in uscita proprio per questo, perché con il sistema contributivo più anni lavori, più costruisci un montante, più ricca sarà la tua pensione. A me potrebbe andare bene di andare prima con un assegno basso, perché poi mi voglio godere la mia vita in un'altra maniera. Un soggetto potrebbe decidere certo. di andare in pensione, per esempio, a 62 anni certo. anziché a 70, perché si gode di più la vita anche con un assegno minore. Sacrifici, certo. Ecco, questo tipo di flessibilità, purtroppo, subito poco dopo fatta la riforma Dini, è stata congelata. Per quale ragione è stata congelata? Perché purtroppo la finanza pubblica, torniamo al tema di quanto il debito vincola la pensione, la spesa previdenziale, e quanto la spesa previdenziale pesa sulle dinamiche del debito pubblico. Nelle riforme che sono state fatte per aggiustare immediatamente dopo la riforma Dini è stato fatto anche un intervento proprio su questa flessibilità. È un intervento che poi si è difficilmente recuperato. Oggi esiste la possibilità di pensionarsi prima. La legge Fornero ha lasciato questa possibilità. Ci si può pensionare a 62-63 anni se si ha maturato nel sistema contributivo pieno un assegno almeno pari a 2,8 volte il minimo previdenziale, che sono 1.500 certo. euro 1.500 euro lordi, 1.350 euro netti. Si paga una penalizzazione di un anno o due rispetto all'anno di anticipo, però diciamo una finestra c'è. Il problema è tornare a una flessibilità piena implica fare i conti con delle dinamiche di spesa che in questo momento forse non ci possiamo permettere. Non è compatibile. Sono state fatte delle scelte, certo. ripeto, sono state fatte delle scelte, la più macroscopica è, per esempio, sono state fatte 8 salvaguardie per esodati. Sarebbe bello capire quanti di queste salvaguardati erano effettivamente lavoratori che avevano diritto ad essere salvaguardati, e sono stati spesi per questo circa a regime 16 miliardi, ecco. Per fare un esempio certo, certo. Molto concreto e molto recente. Ora abbiamo parlato di numeri veri con un impatto vero sul debito pubblico e sul costo previdenziale. Invece la solita domanda, ma è giusta che arrivi al nostro 349-238-6666 sulle pensioni d'oro o su BEPI pensioni. Parliamo in questi casi di platee molto piccole, solo simboliche, o invece intervenire su queste due voci potrebbe avere anche una conseguenza positiva sul fronte dei conti pubblici? Allora, c'è una questione di equità che sicuramente esiste, e quando si parla soprattutto di vitalizi e di pensioni sopra una certa soglia pagate con un sistema di calcolo retributivo che sicuramente possono essere messe in discussione, ripeto, rispetto alla questione dell'equità sociale. Se invece si guarda al problema dal punto di vista della soluzione finanziaria, ecco, purtroppo la risposta è no. Cioè, se si tagliassero domani tutti i vitalizi e tutte le pensioni d'oro, si sposterebbero forse meno di 5 miliardi. Stiamo parlando di una spesa di oltre 270 miliardi l'anno, e non si comincia non ci sono risorse neanche per certo. cominciare a risolvere i problemi, insomma. Davide, grazie per la tua disponibilità. Grazie a Davide Colombo, collega del Sole 24 Ore. Chiudiamo questo lungo approfondimento dedicato alle pensioni e veniamo alla chiusura dei mercati. Andiamo subito alla pagina dei mercati, che commentiamo con Flavia Carletti, collega di Radio Corre Sole 24 Ore. Buon pomeriggio, Flavia. Buon pomeriggio a tutti. Flavia, allora, mi sembra, almeno fino a poco tempo, qualche minuto fa, vedevo tutti i segni negativi, sia per quanto riguarda l'Europa, Milano, ma anche Wall Street. Sì, esattamente, oggi è stata una giornata proprio all'insegna del segno meno su tutti i listini europei, a partire poi da quelli asiatici questa mattina, e poi continuata questa debolezza anche a Wall Street nel pomeriggio. L'argomento che ha catalizzato un po' l'attenzione di tutti gli investitori sono state le tensioni tra Corea del Nord e Stati Uniti, dopo che la Corea del Nord è emerso che potrebbe attaccare l'isola di Guam, dove ci sono delle basi americane, e Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ha risposto che loro non si fanno minacciare, che risponderanno con il fuoco e con la furia. E diciamo, questa situazione ha fatto, c'è stato oggi proprio un allontanamento da tutto il mondo azionario, e infatti poi sono invece saliti quelli che vengono considerati un po' i beni rifugio, a partire dall'oro e anche passando per le valute. Oggi sono andate meglio delle altre, soprattutto il franco svizzero e lo yen, che sono appunto in momenti un po' di tensione, sono le due valute preferite. E poi dall'altra parte c'è stato anche un miglioramento di una preferenza più che altro di quelle che sono le obbligazioni dei paesi considerati più solidi in Europa, Germania per esempio e Paesi Bassi, e di questo movimento sono state penalizzate soprattutto le banche, che infatti sono stato il settore che su tutti i listini europei è quello che sono i titoli che hanno perso di più, e anche a livello settoriale è stato proprio l'indice settoriale peggiore tra tutti quelli del vecchio continente. Quindi ecco, le tensioni geopolitiche hanno spinto in questa giornata ad abbandonare un pochino gli investimenti ritenuti più a rischio, quindi sono state poi valorizzati i titoli o comunque i comparti più solidi di fatto. Sì, alla fine infatti a Milano a partire poi dai cambi. A partire dai cambi appunto si è visto questo movimento, e poi sui titoli, per esempio a Milano due dei titoli che alla fine sono riusciti a chiudere in positivo tra i pochissimi che ce l'hanno fatta nel FTSE MIB sono stati Leonardo e Recordati, che sono Leonardo appunto società dell'aerospazio e difesa, certo, e Recordati che è una società farmaceutica, mentre invece per esempio a Francoforte il migliore della seduta, che ha fatto una performance di oltre il 3%, è ON, che è comunque un gruppo dell'energia elettrica. Ecco, poi vedo che dicevamo bene Leonardo, tengono le utilities e tiene anche Mediaset. Sì, alla fine che hanno tenuto per quasi tutta la seduta, poi purtroppo in chiusura c'è stato di nuovo un leggero peggioramento dell'indice, e anche questi titoli poi non ce l'hanno fatta, però dopo aver mantenuto il segno più per gran parte della seduta. Mediaset alla fine ha perso lo 0,2%, quindi quasi piatta, è la stessa cosa Telecom 0,29%. Nella seduta quando tenevano era emersa la cosa che in qualche modo c'era un po' di appi speculativo su questi titoli, sempre in attesa di novità sugli sviluppi azionari. Mediaset e Telecom sono entrambe partecipate da Vivendi, e quindi adesso si aspetta che tutto il mercato si aspetta che possano esserci novità per Telecom, anche sempre sulla rete ci si interroga su questo eventuale scorporo, e quindi c'era un po' più di appeal in una giornata appunto priva di spunti legati ai singoli titoli, ma più legati a tensioni internazionali. Questi due titoli sembravano reggere, poi però nel finale, proprio nelle ultime battute, sono andati in giù proprio un po', facendo sempre meglio del mercato, ma comunque risentendo un po' delle vendite generalizzate. La stessa cosa è successa a Snam e Terna, che insieme ad Atlantia, che invece ha chiuso lo 0,23%, fanno parte un po' di quei titoli che vengono legati a comunque dei mercati o regolamentati o comunque a tariffa in qualche modo, certo. Quindi questa cosa le aveva un po' preservati dalle vendite. Alla fine appunto Atlantia è riuscita a mantenersi a rialzo, infatti ha chiuso con lo 0,23%, Snam e Terna invece alla fine hanno visto prevalere più le vendite, però nell'arco della giornata questo fenomeno un po' si era notato, appunto di una leggera tenuta di tutta una serie di titoli appunto tra utilities e comunque mercati regolamentati o a tariffa. Certo. Flavia, nelle nostre notizie in breve abbiamo dato anche la notizia della cessione della quota formazione da parte del Sole 24 Ore, notizia che mi sembra sia stata ben accolta dai mercati. Beh sì, il Sole 24 Ore oggi è stato uno dei titoli migliori a Piazza Affari, e alla fine ha chiuso con un rialzo del 9,43%, proprio come avete accennato, per questa notizia che è uscita questa mattina, che ieri sera è stato raggiunto questo accordo per la vendita del 49% della Business School 24. Grazie a Flavia Carletti, collega di Radio Cor Sole 24 Ore, e noi ci fermiamo per le strade in diretta. Focus Economia. Di nuovo insieme per quest'ultima parte di Focus Economia. 17.46, Vincenzo Miglietta al microfono. Parliamo e torniamo a parlare anche oggi dei 10 anni dall'inizio della crisi economica. Ieri ne abbiamo ricordato con il collega Pavesi del Sole 24 Ore quali furono le micce che portarono a questa crisi che stiamo ancora vivendo. Forse stiamo uscendone fuori, ma comunque i suoi effetti li sentiamo ancora. Con il collega Moria Longo, sempre del Sole 24 Ore, che saluto e ringrazio. Ciao Moria. Ciao, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Parliamo oggi invece e cerchiamo di analizzare, lo fai benissimo tu oggi sul Sole 24 Ore, quali sono stati gli effetti che possiamo vedere adesso di questi anni di crisi. Non tutti ci hanno perso di fatto con questa crisi economica, vi sono paesi che hanno saputo reagire bene, sono gli Stati Uniti, forse meno l'Europa. Veniamo da giorni di record di Wall Street, a parte oggi che non sta andando bene, ma Moria, oggi tu analizzi questi 10 anni, perché gli Stati Uniti, da dove è nata la crisi economica, sono stati così bravi rispetto all'Europa a uscirne fuori? Ma gli Stati Uniti hanno fatto alcune cose che l'Europa non ha fatto nell'immediato. Già il crack di Lehman Brothers è del settembre 2008 e già pochi mesi dopo la Banca Centrale Americana ha iniziato il famoso quantitative easing, cioè ha iniziato a stampare monete e inondare di liquidità ai mercati che erano ormai in tilt. E quindi la banca centrale ha reagito subito, mentre la banca centrale europea il quantitative easing l'ha fatto molti anni dopo. Quindi primo certo. Problema, l'immediatezza della reazione. Secondo punto, che differenza gli Stati Uniti dall'Europa? Gli Stati Uniti hanno affiancato la politica monetaria, quella della banca centrale, molto espansiva, appunto ripeto, tassi a zero e liquidità, inondazione di liquidità sul mercato. Gli Stati Uniti hanno associato a questa cosa, che ripeto hanno fatto immediatamente, hanno associato anche una politica fiscale espansiva, cioè hanno aumentato il deficit in maniera esorbitante nei primissimi anni dopo la crisi. Il deficit è salito moltissimo, mentre l'Europa con i suoi parametri non l'ha fatto. E questo ha dato una spinta fortissima all'economia. L'economia americana, dopo il crack di Lehman Brothers di fine 2008, ha fatto un anno di recessione nel 2009, da allora si è ripresa. L'economia europea invece ha reagito molto più lentamente, abbiamo avuto una crisi che non è stata solo economica, ma è stata anche in gran parte politica e di conseguenza poi sociale. Certo. E la Banca Centrale Europea è arrivata tardi. La politica fiscale espansiva praticamente non è mai arrivata, adesso non è più restrittiva, qualcuno dice che lievemente espansiva, ma nulla di paragonabile, e quindi noi siamo nelle sacche della crisi. Adesso ci stiamo tirando fuori perché l'economia europea sta crescendo, ma purtroppo sta crescendo in maniera dopo anni di gravissima crisi, quindi che ha lasciato morti e feriti purtroppo da tutte le parti, e soprattutto ne sta uscendo in maniera molto difforme tra paese e paese. Purtroppo l'Italia è nella parte bassa, diciamo, della forchetta, diciamo così. Quindi Moria, scusami, il primo elemento che mi sembra dirimente tra Stati Uniti ed Europa è che gli Stati Uniti hanno avuto una capacità politica soprattutto di intervenire. Evidentemente la frammentarietà anche proprio dell'Unione Europea ha pesato sulle capacità di reazione. Difatti sta tutto nella parola Stati Uniti. Loro hanno avuto una reazione velocissima perché lì la capacità di decisione è molto veloce. In Europa purtroppo non è così, abbiamo altri pregi, ma sicuro quello della velocità di decisione non è uno dei nostri, e quindi abbiamo reagito male. Attenzione però, perché c'è anche, come tutte le cose, un risvolto della medaglia, e lo stiamo vedendo adesso nei record di Wall Street che dicevi poco, di cui parlavi poco sì, fa. Certo. Allora, questa reazione fortissima degli Stati Uniti, che poi è stata affiancata molti anni dopo anche dall'Unione Europea, adesso la Banca Centrale Europea sta stampando molti soldi, adesso ne stampa 60 miliardi al mese di euro, vengono stampati dalla Banca Centrale Europea. Questa grandissima quantità di denaro ha creato un fortissimo rally e una fortissima espansione di tutti i mercati finanziari. Abbiamo Wall Street che è sui massimi, dai minimi toccati nel marzo 2009 a un numero, forse non tutti lo sanno, il minimo di Wall Street fu a 666, l'indice di Wall Street fu 666. Da allora, da questo minimo, c'è stato un rally fortissimo e Wall Street continua a salire, la borsa di Wall Street, ma non solo quella di Wall Street, la borsa di Francoforte è sempre intorno ai massimi storici, tante borse sono comunque molto alte. E non solo, anche i mercati obbligazionari hanno fatto grandissime performance e così via. Questo perché? Perché tutto il denaro che la banca centrale, le banche centrali hanno stampato nel corso degli anni è andato a infognarsi sui mercati finanziari, creando il rischio di bolle finanziarie. Allora vi do alcuni numeri che secondo me sono veramente incredibili. Allora, attualmente Siccome le banche centrali hanno stampato tanto denaro, hanno messo tanta liquidità sul mercato, questa liquidità avrebbe dovuto essere investita in attività produttive, in investimenti veri, macchinari, assumiamo. Invece, siccome c'era una grande sfiducia, l'economia non andava, le imprese non investivano, pensate che sono rimasti fermi questi gli investimenti, non solo i soldi, no, non sono rimasti fermi, sono stati dirottati sui mercati azionari. In America le aziende fanno usano la liquidità in gran parte per comprare azioni proprie a Wall Street. Pensate che a livello mondiale i buyback, cioè il fenomeno delle aziende che comprano aziende, azioni proprie, quest'anno sono stimate nel 2017 a 1.000 miliardi. Se si sommano anche i dividendi, che sono altri soldi che le aziende guadagnano e riportano in borsa, si arriva a 1.700 miliardi secondo una stima di Citigroup recente. E negli anni passati uguale. Allora cosa hanno fatto? Le aziende, invece di investire nelle attività produttive che avrebbero portato a crescita economica vera, solida, aumenti degli stipendi e quindi una crescita sostenibile, hanno investito i loro soldi in borsa. Questo l'hanno fatto le stesse aziende con il meccanismo del buyback, che è molto più diciamo in voga negli Stati Uniti, ma in Europa meno, ma comunque i fenomeni sono analoghi. Ma anche altri fondi, per esempio oggi è uscita una notizia che i fondi di private equity, quelli che dovrebbero investire in aziende in piccole imprese, che investire in aziende, quindi in economia reale, hanno 1.000 miliardi a livello globale di soldi che non riescono a investire, non investono, li tengono lì, e dove li mettono? In borsa. Ecco quindi che questa liquidità che è rimasta intrappolata, non è andata nell'economia reale o se non in piccola parte, ha gonfiato le quotazioni di Wall Street, delle borse, dei mercati finanziari, che oggi sono ai massimi, con la speranza che prima o poi un po' di soldi vadano veramente dove dovrebbero andare, cioè nell'economia reale. Ragionamento chiarissimo, Moria, ti ringrazio e grazie a Moria Longo, collega del Sole 24 Ore. Avremo bisogno di più tempo per approfondire questi 10 anni di crisi economica, spero di averne nei prossimi giorni, anche per parlare in maniera più approfondita dell'Europa. Vediamo anche i 10 anni di crisi hanno portato di fatto poi alla Brexit, ma chiudiamo questo argomento e veniamo ad un altro tema, che è quello del Sud America, sicuramente in difficoltà in questi giorni. Di Sud America parliamo con il collega Roberto Darin del Sole 24 Ore. Ciao Roberto, grazie per la tua partecipazione. Buonasera a tutti. Roberto, allora, pensiamo tutti al Venezuela, a quanto sta accadendo nelle ultime settimane, ma è un po' tutto il Sud America un po' sulle montagne russe. Noi affrontiamo logicamente in Focus Economia più gli aspetti economici. Tu oggi ne scrivi sul Sole 24 Ore e spieghi come un po' tutti gli investitori stiano abbandonando il Sud America, ad eccezione soprattutto della Cina. È così, la Cina e la Russia, per la verità, anche se sono soprattutto i flussi che arrivano da Pechino che sono stati quantificati in parecchi miliardi di dollari, una somma esorbitante che è stata destinata agli investimenti petroliferi venezuelani e in parte brasiliani. Certo. Quindi la Cina ha puntato sull'energia e quindi ha inviato davvero quantitativi enormi. Diversamente gli altri investitori, l'Unione Europea e gli Stati Uniti, hanno drenato risorse che invece in precedenza hanno elargito, soprattutto gli Stati Uniti. Ecco, Sud America, dicevi, i grandi investimenti della Cina, soprattutto in quei paesi che hanno capacità minerarie destinate alle energie alternative. Parlo degli elementi fondamentali per le macchine del futuro, per le batterie, quindi litio e cobalto. Perché la Cina ha puntato molto su questo e non ci hanno puntato Stati Uniti ed Europa? Dunque no, Giappone, Stati Uniti ed Europa sul litio, che è il minerale da cui si producono poi batterie per le auto elettriche. Va detto che, ecco, quantitativi di investimento non irrilevanti sono stati puntati anche dagli Stati Uniti, che però appunto è un settore molto specifico questo. L'auto elettrica, come sappiamo, è un presente più che un futuro, quindi certo. Questo è un capitolo a parte, ma naturalmente anche i cinesi sono molto interessati e la Bolivia è il paese al mondo che detiene la maggior parte di risorse. Anche se Evo Morales, il presidente, vinse varie elezioni ricordando di aver nazionalizzato questa risorsa così preziosa per non condividerne la proprietà in qualche modo, non darla in concessione a società minerarie internazionali che avrebbero potuto, tra virgolette, depredare la Bolivia e quindi non far rimanere in casa introiti per un paese di soli 8 milioni di abitanti, dove però la povertà è ancora molto diffusa. Il litio comunque è la grande scommessa e ora a maggior ragione quando tra pochi mesi la campagna elettorale della Germania si giocherà anche sull'auto elettrica e quindi sull'impossibilità di continuare a inquinare come in passato le città tedesche. Quindi un'interconnessione molto forte tra economie influenzate dalla geopolitica, ricordavi le elezioni in Germania, oggi scrivi di 102 miliardi investiti dalla Cina in America Latina. Roberto, una risposta velocissima: il Venezuela, con tutto il petrolio che ha, è in serie difficoltà, prospettive per le prossime settimane? Una risposta brevissima. Nessuno ha questa risposta. Le prossime settimane si preannunciano ancora cariche di tensione, perché l'assemblea costituente che si è insediata pochi giorni fa, dopo il voto di 10 giorni fa, ha un orientamento evidentemente dirigista e l'opposizione denuncia quindi il governo di Nicolás Maduro di avere un atteggiamento poco democratico. Quindi le due parti continuano a non dialogare e ogni giorno ci sono scontri di piazza. Vedremo dunque come andrà a finire. Grazie Roberto Darin, Il Sole 24 Ore. Per oggi è tutto. Un ringraziamento a Mauro Del Corno per l'assistenza al programma, Alessandro Chiappini e Gianmarco Fernato in regia. Un saluto da Vincenzo Miglietta. Radio 24. Libera la voglia di fare.